tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. 16, 7 minuti e 42 secondi a Radio 24, le nostre due ore in diretta di RadioTube oggi sono fittissime, abbiamo un sacco di ospiti, parliamo di serie TV, parliamo di musica, parliamo di I Love My Radio, parliamo anche di libri e poi avremo un co-conduttore. No, state con noi perché non vi potete immaginare chi ci sarà nella seconda ora di RadioTube, nell'ora di RadioTube Social Network. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp, poi ci sono i miei account social, al chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Oggi ho un paio di scarpe particolarmente belle, le ho messe su una storia di Instagram. Vabbè, non importa, cominciamo subito con la musica. Cominciamo con un artista che a me piace moltissimo e che mi mancava da molto tempo. Uscire fuori fa stare bene, sentirsi soli, cammino piano verso le luci che bruciano i colori. Perché sto bene così, sto così bene da quando siamo insieme, e da quando siamo insieme e sento la stessa canzone. L'unica che mi viene da quando siamo insieme. Mancava discograficamente da qualche anno. Un Sanremo in cui era stato celebrato come una grandissima promessa della musica italiana, poi il silenzio. Dopo 5 anni esce con un nuovo bellissimo album, La stessa emozione. Bentornato ad Andrea Nardinocchi. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Andrea, mi racconti cosa è successo? Cosa ti ha allontanato dalla musica per tanto tempo? Ho avuto molta fortuna all'inizio della mia carriera, perché molte cose sono successe in modo molto molto veloce e io non mi rendevo neanche conto di quanto fosse poco comune quello che mi stava succedendo. E nel 2012 esce il mio primo pezzo e dopo qualche mese io vado a Sanremo, poi perché estate 2012, inizio 2013 è qualche mese, e io vado a Sanremo mentre sono in studio che sto mixando il mio primo disco con i giornalisti che mi intervistano e già parlano di me come se fossi un alieno, un qualcuno, il futuro della musica italiana. Però quella roba lì, mentre la vivevo, mi sembrava un po' troppo, mi sembrava un po' esagerata. E allo stesso tempo non volevo scendere dal treno, capito? Perché quello mi rendevo conto che era un qualcosa che non succede tutti i giorni. Però ho detto, ma sì, tanto ormai sono indistruttibile, sono il futuro della musica italiana, quindi cosa mi dovrà mai succedere di brutto? E quello che è successo di brutto è che mi sono reso conto che la pressione di tutta quell'attenzione non è tanto che solo non riuscivo a reggerla per l'inesperienza, che proprio era nella mia indole, io non me ne volevo accorgere, il non essere a mio agio al centro dell'attenzione, non la volevo vedere questa cosa. E mi sono buttato lo stesso, senza paracadute, senza corazza, e anche se da fuori lo so che non si è visto uno schianto, lo so, ma dentro c'è stato. Devo dire però che se la stampa ti ha messo pressione, di questo mi dispiace perché io stessa ero una che forse un po' ha contribuito, però non ci avevamo visto male, perché anche con questo album si vede la tua qualità, cioè viene fuori in maniera prepotente ora che ti sei preso il tuo tempo, hai fatto uscire il tuo disco nel momento giusto. Ma cosa hai provato quando hai deciso di far uscire appunto un nuovo album? Guarda, purtroppo la verità non è mai un film di Hollywood, e la verità in questo caso è che questo disco era pronto 3 anni fa. Ci potrei scrivere un libro su tutti gli ostacoli, le cose assurde, gli incastri, con personaggi di tutti i tipi che sono successi. E dopo è arrivata una persona che, come te, che mi hai appena detto un qualcosa che faccio fatica a non commuovermi, perché queste cose che dici sono cose che io, per indole, per, sai, per umiltà, per voler sempre fare le cose senza pensare troppo, no, al giudicarle, a che, a come, per cosa ne penseranno le persone, ma semplicemente io vado in missione e ci metto tutto me stesso, cerco di capire che cosa mi arriva a me, se è valido per me. Però quando arriva una persona che, come te, dici, pensa a queste cose qua e dal nulla, perché io avevo deciso basta, proprio ce l'avevo nel computer, me lo tenevo per me, e ha deciso di aiutarmi senza chiedermi nulla in cambio, io ho pensato che forse questo era il karma. Ho pensato, questo forse è il karma, perché a Natale del 2018 è arrivata questa persona che nel giro di pochi mesi ha trovato qualcuno che ha deciso di venirmi a raccogliere con un cucchiaino, rispettando tutte le mie condizioni che ormai avevo, perché non ne avevo pieni capelli del mondo business musica. E così è stato, e da lì dentro di me ho pensato, cioè, ma forse questa cosa allora è arrivata, forse un po', e questa è la risposta. Allora forse tutto questo è bello, e io ho smesso di demonizzarlo tutto questo in questo anno, e sono convinto che forse riuscirò a continuare a fare questo per le persone che hanno bisogno magari di sentire certe parole. Sicuramente sono ottimista da questo punto di vista. Poi certo, in questo momento, cioè, siamo durante la pseudo-apocalisse, quindi ovviamente questo, cioè, è difficile non considerarlo in questo momento, ma devo dire che ho visto tante cose anche in questi 3 mesi di distopia, horror, ansia. Ho visto anche una marea di cose che mi hanno acceso dentro, perché sono molto positive. Lo so che può sembrare esagerato, ma io le ho viste. Vabbè, detto tra me e te, noi che siamo un po' più scombinati, forse alla fine eravamo più attrezzati di quelli a cui era sempre andato tutto bene. Beh, sicuramente quando sono iniziate a uscire io resto a casa, un po' mi veniva da ridere, perché mi sembrava lo slogan che io avevo nella testa da anni. In protesta col mondo, io resto a casa in tutti i sensi. Meglio prenderla a ridere. Ma. Però adesso ti devo fare una domanda scomoda. Adesso devi uscire di casa e fare dei live. No. No. No, io ti non tocca. Devo, no, io non devo fare nulla. Sia chiaro, non devo fare nulla. Allora, io ho una voglia incredibile, voglio superare anche questo trauma, questo ostacolo, ma ho imparato che per ricucire delle ferite, dei traumi, bisogna andarci molto piano, piano piano, col passo che uno si sente, perché c'ho voglia di condividere tante cose che io ho imparato da essere umano. Penso che il ruolo, capito, della star, degli artisti, queste cose qua, non lo so, penso che vada un po' ridimensionato, ecco, per dirla in parole povere. E quindi niente, forse avrò voglia di dire un po' di tutte queste cose qua, senza rischiare di sembrare il matto megalomane, ennesimo matto megalomane con un microfono su un palco. Grazie Andrea, io continuerò a tenerti d'occhio da lontano, questa volta senza pressione, okay. Perché il tuo talento non deve andare sprecato, il tuo disco, la stessa emozione, ne è la prova. Grazie ad Andrea Nardinocchi. Grazie, ti ringrazio. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Ascolta, è il momento di riaccendere i motori. Con Iveco Daily ripartire è più facile. Bastano poche semplici mosse. Scegli subito il daily più adatto a te, lo ritiri e inizi a pagarlo tra 6 mesi. Nuovo daily, cambia prospettiva al tuo business e riparti con Iveco. Richiedi un preventivo alla tua concessionaria o chiama l'800-800-288 o visita il sito iveco.it. Offerta valida fino al 31 luglio. Fogli informativi e condizioni presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Iveco, l'Italia che vince. figli di comprarsi un daily. Radio Tube Social Village. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura. Varrebbe la pena ascoltarla di più, ma insomma i nostri tempi sono sempre molto veloci perché dobbiamo parlare delle canzoni di I Love My Radio. Allora, questa è ovviamente la Donna Cannone e ovviamente avete riconosciuto Gianna Nannini, è una delle cover fatte proprio e solamente per le radio italiane tutte insieme, che stanno festeggiando i 45 anni delle radio, i 45 milioni di ascoltatori delle radio, 45 canzoni per 45 anni da votare entro il 31 di luglio, e noi ogni settimana ne scopriamo qualcuna, andiamo a svelare qualche aneddoto dietro le canzoni di 5 anni. Allora, stiamo esaurendo gli anni 90, cara Roberta in regia, sorride. Cominciamo col 95, dai, sentiamo cosa c'era nel 95. Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio, non vuoi smettere, smettere mai. E anche questa settimana le sappiamo tutta a memoria, ma c'è sempre qualche curiosità da scoprire e quindi ci colleghiamo con il nostro esperto di I Love My Radio, l'autore del blog Suoni nell'Etere, Simone Fattori. Ciao Simone. Ciao Marta, buon pomeriggio a tutti, mi allora, sentite? Ci sentiamo perfettamente, 1995. Bene. 1990. Allora, innanzitutto volevo fare una premessa. Le cinque canzoni di oggi, la cinquina di oggi, ha due fili conduttori, due scorribande e tre ex che mancano molto. Ma andiamo per ordine. Questa è una scorribanda. Questo è Buon Compleanno Elvis, il più celebrato album di Ligabue, al quale sono particolarmente legato, lo posso dire, tanto in questo momento abbiamo stoppato un attimo il radiovoto. Ah, certo, certo, certo. Perché è uscito in occasione esattamente il giorno del mio 25esimo compleanno e quindi insomma sono particolarmente legato. Volevo ribattizzarmi Elvis vista la coincidenza, ma non è stato possibile. Uno dei dischi più famosi degli anni 90, questa canzone in particolare con l'intro per loro stessa ammissione copiato da Lucy in the Sky with Diamond dei Beatles, è stata oltretutto premiata quell'anno con la targa Tenco come miglior canzone dell'anno, ma è stata anche votata dai lettori di Tutto come miglior canzone italiana degli anni 90, quindi insomma una canzone molto importante per la carriera di Ligabue, ispirata ad un libro che molti di noi hanno amato moltissimo di un concittadino di Ligabue, ovvero Pier Vittorio Tondelli, quindi liberamente, diciamo così, ispirato al suo Altri Libertini, la scorribanda Per le vie dell'Emilia tra amici, queste notti molto particolari, notti emiliane fatte anche di zanzare, quindi siamo certo, anche in tema estivo. Certo. Passiamo al 1996. testa a te, non so perché. Domani chi qui a microfoni spenti si canta tantissimo. Articolo 31, domani, Simone. Eh sì, qui apriamo il grande capitolo delle ex che mancano. Questa ex manca moltissimo a J-Ax perché butta giù questo testo fiume, impreziosito dalla voce di Paola Folli, mai troppo celebrata, insomma gran parte del merito del successo di questa canzone. Abbiamo perso Simone, io potrei cantarvi nel frattempo domani, direi di no. Allora sentiamo, l'abbiamo recuperato, eccoci. No, dicevo, grande merito per questa partecipazione di Paola Folli in questo grande successo del 96 degli articolo 31, che parla di una ex e di tutti i momenti vissuti insieme che J-Ax ripercorre in questo lunghissimo testo, tutte storie molto piccole di grande quotidianità, ma quando l'ex manca, come vedremo anche nelle prossime canzoni, insomma è sempre di grandissima ispirazione. L'ex manca talvolta, non è che manca, proprio non c'è. 1997. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è. E anche questa la sappiamo a memoria. Laura non c'è, NEC 1997. Simone. Altra sfumatura di ex, questa volta si cerca qualcosa di una ex nell'attuale compagna, ma ovviamente non la si trova, e quindi anche questo grandissima ispirazione per questa canzone di NEC. 1997 partecipa al Festival di Sanremo, l'ultimo Festival di Sanremo presentato da Mike Bongiorno, che mi ricordo gli disse platealmente sul palco: ma chissà quante serate farai quest'estate con questa canzone. E in effetti, insomma, è andata così, grande successo in tutta Europa, in Svizzera, in Germania, in Spagna, diverse traduzioni, alcune delle quali proprio di NEC, altre di altri preti, però bisogna dirlo, perché spesso accade, quell'anno al Festival di Sanremo questa canzone arrivò soltanto settima, ma poi vendette 1 milione di copie in tutta Europa. Quindi NEC, Laura non c'è, credo sia molto rappresentativa di quel 1997. Sto ridendo da sola perché è arrivato mi è arrivato un messaggio di Laura Bettini che scrive: ciao Laura, a me cantavano Laura non c'è, è andata a Pavia. Bellissima, grandissima Laura. 1998, e qua ancora soffriamo, secondo me soffriamo un po' anche nel 1998. Non ci credevo, ho detto è lei o no, tra tanti amici, non ti aspettavo qui, solita sera, la solita tribù, tu che mi dici? Stai sempre con i tuoi e ti accompagna un'emozione forte, e ti accompagnava ancora la solita canzone. Ma quanto tempo è ancora? Vabbè, 1998, Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora? E qui ancora un'altra sfumatura delle ex, questa volta la incontra in casa di amici e si accorge di non averla mai dimenticata, ma deve fare buon viso a cattivo gioco, insomma deve dimostrare davanti agli amici che è tutto superato, ma poi quando lei a un certo punto della serata, dopo averlo ignorato, decide di andare via per la sua strada, lui soffre ancora di più, a quel punto è difficile anche nasconderlo agli amici. Insomma, questa è una sfumatura per chiudere la trilogia delle ex, mi sembra la più importante, la più pesante di tutte delle situazioni che possono accadere. Nel 1998 questa canzone fa parte dell'album Mi fai stare bene di Biagio Antonacci, quello di più grande successo di Biagio, 800.000 copie, è stato in classifica per 2 anni, e questa ex che fa molto male è rimasta molto impressa ed è stata molto dedicata, devo dire, sulle radio questa canzone, anche per cercare di recuperare dei rapporti ormai finiti. Allora, ho fatto il conto: Ligabue emiliano, Neck emiliano, Biagio Antonacci è quasi emiliano d'adozione pure lui. Nel 99 mica si starà ancora in Emilia, sentiamo. Anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza. Siamo sui Colli Bolognesi, dunque sempre in Emilia. È andata molto bene all'Emilia in questa seconda metà degli anni 90. Simone? Eh sì, e qui chiudiamo il discorso invece sulle scorribande, perché Cesare Cremonini e il suo gruppo in quell'anno, ovvero i Luna Pop, vanno in giro per i Colli Bolognesi piuttosto che studiare, perché questa è una canzone che ha anche molto a che fare con gli esami di maturità. A proposito, in bocca al lupo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e che sono impegnati negli esami di maturità, perché questa canzone Cesare la scrive perché sta strimpellando con la chitarra in camera invece di studiare. La mamma entra arrabbiatissima, gli dice: basta, devi studiare, tra un po', tra 2 mesi hai gli esami di maturità, e gli rompe la chitarra. Per tutta risposta lui si mette al pianoforte e di getto scrive questa canzone, che poi finirà nel primo e unico album dei Luna Pop. E lui tra l'altro racconta 2 cose in particolare: una che ha portato poi questa canzone agli esami di maturità, per dire forse non sarà una cima, però guardate cosa ho fatto, insomma un voto almeno sufficiente me lo merito per superare la maturità. E soprattutto questa stessa scorribanda in Vespa l'ha fatta il giorno che questo singolo, che poi ha venduto 100.000 copie soltanto il singolo, è uscito nei negozi, e lui ha girato tutta Bologna con la sua Vespa felicissimo, cantando e facendo il giro di tutti i negozi per comprarsi il suo disco, il suo primo disco che finalmente era uscito. Quindi un grande successo che chiude gli anni 90, e dalla prossima settimana siamo nel nuovo millennio. Sì, mi verrebbe da dire: ah, stiamo arrivando verso i giorni nostri. No, perché il nuovo millennio sono passati 20 anni. Ci sentiamo la prossima settimana. Ce ne vuole Simone. Ciao Fattori, l'appuntamento alla prossima settimana. L'autore del blog Sony nell'etere. Ci ritroviamo ancora con I Love My Radio la prossima settimana. Noi tra poco torniamo negli anni 80. Tra poco. Radio Tube Social Village. Eccoci ancora insieme. C'è qualcuno che, secondo me, prendendomi un po' in giro, al 349-238-6666, dice: ancora non hai fatto il tradizionale approfondimento sui tormentoni estivi. Hai ragione, ma quest'anno è così difficile pensare che stia arrivando l'estate. Siamo tutti un po' strani con le stagioni. Vabbè, però anche questi ricordi del passato di I Love My Radio sono bellissimi. A volte noi diciamo: ma vi ricordate come si stava bene negli anni 80? Ricchezza, l'edonismo reganiano, nessuna preoccupazione. Ma sentite qua questo cinegiornale che ho trovato ieri, proprio del 1980. Un fotogruppo di economisti di fama internazionale si sono riuniti nei giorni scorsi a Saint-Vincent per la consegna del premio Saint-Vincent per l'economia. Nell'occasione Franco Reviglio, Romano Prodi, Sergio Ricossa, Claudio Napoleoni, Nino Andreatta, Ciro Lombardini, Giorgio La Malfa, Filippo Maria Pandolfi e numerosi altri, in un convegno sul tema "Come sarà il 1980? Le opinioni degli economisti", ci hanno confermato che l'anno prossimo non sarà dei migliori. Appare un comune convincimento che la forte contrazione del tasso di crescita del reddito si associerà ad un elevato tasso di inflazione. Insomma, le previsioni per l'80 non sono rosee. Ma cosa ne sapevate? Ma cosa ne sapevate nell'80? Che non erano rose, ma ancora non avevate idea. Però diciamo che si sono aperti 40 anni davvero singolari. Ogni anno dal 1980 al 2020 ci suscita dei ricordi veramente irresistibili. Ma perché dico ricordi irresistibili? Certo, ci sono anche ricordi bruttissimi, pagine dolorose, ma solo di quelle più pop voglio parlare in questo blocco, perché è uscito per i tipi del saggiatore un saggio che io aspettavo tantissimo, si intitola Mad in Italy, proprio così, Mad in Italy, manuale del trash italiano 1980-2020, ed è l'ultimo libro di Gabriele Ferraresi. Ciao Gabriele! Ciao Marta, buon pomeriggio. Hai sentito questo tragico 1980 con un'economia così tutto va male. Dovevano arrivare ancora i gamberetti in salsa rosa e la tema Ferrari 832. Sì, gamberetti. Allora, a volte io con i miei amici penso, ogni tanto diciamo, dai, organizziamo una bella cena anni 80. Anche Roberta dice di sì, gamberetti in salsa rosa, pennetta alla vodka, così, ecco. Sì, sì, pensiamo sempre di organizzare tutto questo. Allora, Mad in Italy è un saggio molto interessante perché attraverso una disamina di tutti gli anni dal 1980 al, diciamo, 2019, ma ahi noi un capitolo sul 2020 l'hai messo, hai fatto in tempo a metterlo, attraverso i racconti di ciò che ha caratterizzato la cultura popolare, il cinema, la musica, la televisione, ma anche le cronache, anche gli eventi politici, raccontano tantissimo del nostro paese, Gabriele. Ma certo, guarda, allora, sai, il libro copre una storia del costume dell'Italia dal 1980 al 2020, per cui, come sappiamo noi, sappiamo chi ci ascolta, sono tantissime cose, ovviamente. Nel libro ho cercato di circoscriverle a quelle che ai miei occhi e nella mia testa erano state quelle che un pochino ci avevano colpito tutti, che tutti, toccando un anno, magari non ricordiamo precisamente che è successa questa cosa, però se la troviamo riscritta e raccontata ci si accende la lampadina e diciamo, ah, cacchio, le gemelle K, per esempio, e il delitto di Garlasco, per esempio, per parlare di una cosa un po', insomma, parlare dell'ossessione per la cronaca nera degli anni 00, degli anni dal 2000 al 2010, per esempio. Ma questa, come per mille, davvero, mille non è un numero che vi dico a caso, perché penso che davvero ce ne siano migliaia di eventi come questo nel libro. Sì, io mi sono riferita a quelli più leggeri e quelli più giocosi. Ovviamente c'è anche la cronaca nera, c'è anche tanta comunicazione, tanto passa per la televisione, ovviamente, certo, ma passa anche dal cinema e passa dalla musica. Che cosa hai imparato dell'Italia studiando anni in cui o non eri ancora nato o eri piccolissimo e arrivando fino ai giorni nostri? Siamo cambiati tanto oppure ci sono dei tratti che ci accompagnano in tutti questi decenni? Ma allora, guarda, l'Italia come, diciamo, come geografia, come architetture, probabilmente è cambiata, nel senso che quella parte della nostra vita che, non so, va per le strade, che vediamo camminando in giro, è cambiata. Noi non siamo cambiati in realtà, ma siamo davvero gli stessi di ancora più, ancora prima in realtà, davvero siamo gli stessi degli anni 50. Ci sono le stesse invidie, le stesse gelosie, gli stessi rancori, ma anche gli stessi innamoramenti, gli stessi modi di imitare degli stili o, insomma, delle mode che arrivano come sempre, come dagli anni 50, da oltreoceano, e che importiamo abbastanza criticamente in Italia, da un americano a Roma, alla trap estera e basta, a Cinisello Balsamo, per esempio. Allora, sto aprendo delle pagine a caso, apro, pagina 82, Sabrina Salerno, il video di Boys Summertime Love, 1987. Allora, non capisco perché Edoardo Lavezzari fa un gesto di apprezzamento, non eri stato neanche pensato nel 1980. Dice, ah, dicevi, no, stavi parlando d'altro, ah, va bene. Fiat Barchetta, benvenuti nei favolosi anni 90, uno spot televisivo. L'arrivo dice posta per te, Antonio Zechila e Adriano Pappalardo a Domenica Inn, tutto concorre a disegnare l'Italia? Ma certo, tutto, perché noi siamo inevitabilmente rapiti dalla televisione che guardiamo, dalla radio che ascoltiamo, dai giornali che, anche se facciamo finta che non siano più letti, sono ancora lettissimi, e diciamo negli ultimi 10-15 anni è tutto questo che ci rapisce, ci contamina, ci fa scoprire delle cose nuove. Si è aggiunto ovviamente internet e i social media, che sono diventati omnipervasivi, sono insomma qualcosa che non smette mai di accompagnare la nostra giornata. Per cui sì, siamo tutto questo, e riprendendo quello che dicevi tu, sono, non so, la Fiat Barchetta per me è stata un'automobile simbolo di un modo di scrollarsi di dosso la cupezza dei primi anni 90, per cui per esempio Tangentopoli, per esempio, insomma, le stragi di mafia. Non era proprio questo periodo incredibile, era un periodo estremamente drammatico. E la Barchetta invece era questa automobile un po' morbidina, un po' simpatica, un po' allegra, che secondo me è stato un buon simbolo, che è uscita verso il 94-95, adesso vado a memoria, potrei sbagliare di un anno. E così via, poi la televisione, insomma le riste televisive che hanno che non sono anche lì una novità degli anni 00, sono una cosa che succedeva già nei 90, già negli 80, ma in alcuni casi si è manifestato un incanto destinato a durare, come quello di Zechila e Pappalardo. Sì, in questo infatti a volte ritornano, a volte non se ne vanno mai. Devo dire che hai detto effettivamente adesso abbiamo internet, abbiamo i social, abbiamo tutto sotto mano, però sistematizzare aiuta, perché certo, questo lavoro che hai fatto appunto di raccolta e di organizzazione anno per anno ci permette di fare davvero un viaggio. Io vi consiglio di fare questo viaggio dall'80 a oggi, magari qualcuno di voi se li ricorda tutti, qualcuno di voi non era nato o era molto piccolo nei primi anni. Davvero è un viaggio interessante nelle pagine più allegre e nelle pagine più controverse. Pagina 110, i mondiali d'Italia 90, e qui siamo in giorni di grandi celebrazioni, quindi tu sei sempre sul pezzo. Il telefono cellulare 27 marzo 1990, insomma, io guarda, sono ancora al 1987 perché ho appena iniziato, però sto andando avanti e ogni volta mi dico: ah, me lo ricordo, no, ma non me lo ricordo, allora fammi rileggere un ma po', sì, perché un po' si attacca alle mie memorie e un po' mi fa scoprire qualcosa di nuovo, insomma, sono molto molto molto incuriosita. Allora, vi ricordo Made in Italy, proprio MAD, Made in Italy, manuale del trash italiano 1980-2020, anche con una meravigliosa spiegazione del perché si parla di trash italiano. Ovviamente la fonte è il nostro comune e sempre amatissimo amico Tommaso Labranca, che vale la pena citare e ricordare in ogni momento. L'appiglio intellettuale e l'appiglio teorico è quello lì, quindi un appiglio molto importante. Io ringrazio di essere stato con me, ti aspetto presso RadioTube, Gabriele Ferraresi. Ciao Gabriele. Molto volentieri, grazie, ciao a tutti gli ascoltatori, a presto. Ciao, grazie. A presto Gabriele. Ciao. Noi facciamo una breve pausa e poi saremo ancora insieme per parlare, m'incastro, di serie TV. Radio Tube Social Village. E un ascoltatore al 349-238-6666 scrive proprio in questo momento, infatti lo pensavo, avrebbe potuto scriverlo Tommaso Labranca. Sì, è proprio la base teorica di questo Made in Italy di Gabriele Ferraresi, e ovviamente la teorizzazione del trash del grandissimo Tommaso Labranca, che ci manca ancora dopo tutti questi anni. Ma parliamo un po' di serie TV, andiamo a vedere cosa c'è di nuovo. Vi spiego. Mi sono presa un paio di fregature in questo periodo, ho visto un paio di serie, ma bruttine, cioè, o meglio, a me non sono piaciute, vabbè, poi chiedo al nostro ospite se lui le ha viste, se gli sono piaciute, ma voglio dei consigli, voglio disperatamente dei consigli da Diego Castelli. Ciao Diego! Ciao, ciao, buongiorno. Oh, bentornato. Channel manager di Iris 20, canale 34, cofondatore di Serial Minds. E io ogni volta gli dico: guarda, 34, grande canale, perché fa dei film di quelli che non si può confessare che ci fanno ridere, ci piacciono tanto. Guilty pleasure. Che non si vedevano più. Esatto, diciamo. Esatto, che non si può dire, ma li guardiamo con piacere. Allora. Periodo difficile per le serie TV, perché effettivamente allora la pandemia, il lockdown, molte uscite ritardate, per chi guarda le serie doppiate molti doppiaggi non vengono pubblicati, giustamente come scrive in sovraimpressione Netflix, la salute dei doppiatori ha, ci mancherebbe altro, la priorità. Diego, dai, dacci dei consigli, dimmi una serie che devo vedere assolutamente. Allora, effettivamente hai ragione, è un periodaccio da quel punto di vista lì, perché il virus ha ritardato tante cose e gli effetti veri li vedremo secondo me anche in autunno. Accidenti, ci saranno meno serie? Ci saranno meno serie assolutamente, alcuni canali l'hanno già detto che prima di gennaio 2021 non se ne parla, canali che normalmente americani normalmente metterebbero poi le loro serie a settembre, no? Quindi sappiamo che è così. Detto questo, alcune chicchine ci sono. Secondo me una delle cose migliori da vedere in questi giorni qua, che ci consente anche di parlare di una piattaforma nuova, è The Great. The Great, che è una serie dedicata a Caterina la Grande di Russia, interpretata in questo caso da Elle Fanning, quindi diciamo una Caterina la Grande giovane, perché poi ha regnato per decenni, famosissima regina di Russia, illuminata, despota illuminata come si dice, e che in questa serie qua si vede come lei è arrivata al potere, diciamo spodestando quello che era suo marito, cioè Pietro, in quel momento era lo zar di Russia. È una serie, non è praticamente storica, perché comunque si prendono molte libertà in modo tale da creare una serie che è da un certo punto di vista super femminista, ma anche super divertente, piena di cose surreali, perché praticamente lei comincia a portare una ventata di illuminismo in una reggia, con un sovrano che invece è completamente assoluto e violento e dispotico. Ed è interessante perché è disponibile su Starz Play. Ecco, che è spiegami un po' cos'è. Allora, Starz Play. Starz Play è un'altra Netflix, un'altra Prime Video, come vogliamo chiamarla, quindi un'altra piattaforma di streaming legale, che in questo momento in Italia è all'interno del mondo di Apple. Uh-huh. Quindi si trova, è diciamo un canale all'interno di Apple TV. Ed è c'è da un annetto in realtà, da maggio 2019, ma finora non se n'era ancora parlato perché non aveva dentro contenuti di grandissimo pregio. Cosa ha fatto però negli ultimi tempi? Ha cominciato a prendere molte serie di Hulu, che è altra piattaforma in realtà di proprietà di Disney, che da noi non è mai arrivata, ma che negli ultimi tempi sta producendo cose veramente di pregio, tra cui questa The Great è diciamo una delle ultime e sicuramente una delle migliori, ma voglio citare, ed esce il 16 di luglio, voglio citare anche Normal People, che è un'altra serie, questa qui diciamo è un dramma romantico, anche se mi sembra riduttivo chiamarla così, tratto da un romanzo omonimo di Sally Rooney, in cui è di fatto la storia d'amore tra due ragazzi dal liceo all'università. È detta così, sembra assolutamente banale, ma sono due ragazzi che hanno una vita un po' disfunzionale, che hanno difficoltà soprattutto con le relazioni con le altre persone e nel trovare un loro posto nel mondo, ma che tra loro due scocca questa scintilla assolutamente invincibile che li porta ad avere un amore estremamente travagliato che dura per anni tra alti e bassi. E io la consiglio perché voi l'avete sentita così raccontare da me e sembra banale, ma io vi garantisco che due protagonisti così, con quella chimica lì e con quel senso di trasporto per questo sentimento, non li avete visti spesso. Allora, quindi mi hai convinto, sto guardando la piattaforma di Apple TV alla quale sono abbonata, Starz Play, gratis per 7 giorni, poi 4,99 euro al mese. Esatto, quindi ci abboniamo a un'altra piattaforma ancora. Un'altra ma piattaforma. Perché no? Ma poi, dico io. Poi è una cosa che ovviamente non amano dire loro, però quando ti abboni a una piattaforma così ti puoi anche staccare a un certo punto, quindi sai, ti abboni, vedi due serie che ti piacciono, ti poi stacchi, ti stacchi, secondo me certo. Anche senso nel tentativo di gestire queste migliaia di piattaforme, tutti questi soldi che sono portati, a ricordarsi, un mese, una cosa, uno si stacca, un mese, certo. Sì, bisogna fare un attimo di planning, questo ecco, sì, perché ecco. Sennò diventa complicato. Un altro suggerimento, Diego? Allora, altro suggerimento, andiamo alla più tradizionale Netflix, altro modo di dire ormai, perché ci sono due ritorni importanti. Ieri è partita la seconda stagione, è arrivata la seconda stagione di The Politician. Sono al secondo episodio, sì. Esatto, sì. Che è di Ryan Murphy. La prima era stata molto, molto divertente, e raccontava di questo ragazzo che voleva vincere le elezioni del suo liceo, e in questa seconda stagione lui è un po' cresciuto e deve vincere delle elezioni più vere per diventare, diciamo, governatore dello Stato di New York. E Ryan Murphy lo conosciamo, insomma, fa mille serie, c'è sempre il suo stile molto veloce, molto, molto sincopato, però è divertente anche perché ti fa capire determinati meccanismi della politica americana senza necessariamente parlare della politica presidenziale, delle elezioni presidenziali, che sono di solito la cosa che viene sempre rappresentata in film e serie riguardo la politica americana, ma le dinamiche di quel modo di fare politica si vedono anche nelle elezioni del liceo, e quindi è divertente. E poi è una serie molto frizzante, cioè e poi ci sono degli attori, soprattutto delle attrici da niente, cioè da Gwyneth Paltrow a Jessica Lange, Beth Midler, esatto, sì. Cioè, sì, sì. Proprio un bel parterre. E sempre di ritorno su Netflix, invece qua se parliamo di pesantezza, arriva settimana prossima la terza stagione di Dark. Ecco. Dark, serie tedesca. La terza sarà l'ultima stagione. Io cosa ho fatto con Dark? Io avevo visto la prima stagione, mi era piaciuta molto. Storia di, diciamo, viaggi nel tempo, ma non pensate a Ritorno al futuro, perché no, c'è molta più ansia, molta più pesantezza, molto più disagio. E dopo la prima stagione io avevo provato a vedere la seconda dopo un anno o due addirittura, e non ci capivo più niente, perché non mi ricordavo niente, e quindi non l'ho vista, e ho detto: io mi vedo tutta la prima, tutta la seconda, quando sta per uscire la terza, che sarà l'ultima, è stato dichiarato che sarà l'ultima, e quindi così evito di dimenticarmi in un anno le cose, perché è una serie effettivamente molto complicata, ma se gli state dietro c'è tanta soddisfazione, perché proprio c'è tutto un intrigo che poi diventa ovviamente super fantascientifico, ma in un modo che coinvolge anche passioni vere, passioni, poi è tutta una cosa di incastri, di famiglie, perché ovviamente il padre, quindi bisogna prendere appunti, ho già capito, ha fatto cose, il figlio non lo sa, il nonno cosa ha combinato con quell'altro, insomma tante cose, ma ci sta. Vabbè, ci sta. Allora, invece Luigi da Pisa ci consiglia Ozark, che io non ho ancora visto, invece non mi è piaciuta tanto, ve lo dico, Il colore delle magnolie, Sweet Magnolias. Volevo una cosa un po' light, un po' da serata così di inizio estate, una roba un po' romantica, ma no, guarda, lo dico a te perché tanto so che tu queste cose qua non le guardi un po' troppo. Io ho visto poco e confermo, io sono anche poco in target, però diciamo che sì, una cosa molto, diciamo, più da signorine, diciamo che Big Little Lies è un'altra cosa, ecco volevano, diciamo, fare Big Little Lies, non ce l'hanno fatto. O anche ti tiro fuori un titolo che a te non dirà nulla, però è sempre su Netflix, Chesapeake Shores, che è una serie in cui sono tutti belli con gli occhi blu e ci sono sempre fiori in ogni inquadratura, ecco, così, esatto. Perché servono anche queste per un po' di così sogno. Ogni tanto sì, dai. Dai. Allora, serialminds.com per andare a vedere tutte le novità delle serie TV. Grazie a Diego Castelli, torna presto, ti aspetto. Grazie a voi, va bene. Abbraccio grande, grazie Diego. Vabbè, ovviamente se andate sul sito di radio24.it c'è sempre ancora una, poi smetto, con tutti i consigli. Vi faccio l'algoritmo umano, genere per genere. Allora, noi diamo la linea adesso al giornale radio delle 17, poi ci ritroviamo per la seconda ora, quella di RadioTube Social Network.